Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. I più attenti di voi sapranno quanto ci piace e ci affascina il ciclismo eroico, in generale lo sport, ma insomma il ciclismo è uno degli sport più ricchi di atti eroici di persone particolari, e siamo partiti con Alfonsina Strada noi al Falco e Gabbiano, e poi abbiamo raccontato gente come Gimondi o come Luigi Malabrocca, che era la maglia nera della bicicletta. E insomma, tutti atleti che hanno faticato, hanno sofferto e hanno scritto pagine di leggenda. Bene, oggi voglio raccontarvi un dietro le quinte. Oggi vi racconto la storia di un uomo probabilmente senza il quale questo sport non avrebbe avuto molti dei suoi eroi, primo tra tutti il grande Fausto Coppi. L'uomo che noi stiamo per raccontarvi è Biagio Cavanna, e senza le sue mani sapienti forse Coppi non sarebbe stato il grande Fausto. Senza i suoi consigli, i suoi insegnamenti, il suo lavoro, forse il ciclismo non sarebbe stato quello che oggi possiamo raccontare. E la storia di Cavanna è veramente interessante. Lui è stato prima un atleta, ma poi un allenatore, una guida, un uomo pratico, antico e moderno allo stesso tempo. Era un non vedente, come dicono i corretti di oggi, il massaggiatore cieco. Ne parlava anche un giornalista che conosceva bene il ciclismo, Giorgio Bocca. Aveva un suo fascino, soprattutto per uno come me piemontese che conosceva bene l'ambiente, perché era un misto di magia contadina da una parte e di scienza chimica dall'altra, no? Per cui questo Cavanna, che era un cieco, aveva nei rispetti di Coppi, era un po' il suo Omero, era questo uomo cieco che però aveva conosciuto già molti campioni, era stato massaggiatore di quasi tutti i campioni della Bianchi, che evidentemente quando lui era un ragazzino alle prime armi le aveva dato i primi consigli di vita civile, era quello che gli aveva insegnato a come guadagnare, a come comportarsi coi gregari, era suo maestro di comportamento di vita. E la storia di Cavanna è molto più ricca e importante del solo rapporto con Fausto Coppi, perché è la vicenda di un uomo che ha avuto tante esperienze, è stato capace di superare mille ostacoli, naturalmente la sua cecità innanzitutto, che è arrivata in età adulta, però è stato anche un ciclista, un pugile, prima che un grande allenatore. Biagio Cavanna nasce nel 1893 a Novi Ligure, un piccolo scalo ferroviario della provincia piemontese, che è già la capitale internazionale del ciclismo. Peraltro c'è un museo a Novi Ligure che è molto bello, molto interessante, sulla bicicletta. E questa cittadina è anche stata la fucina di due grandi talenti della bicicletta, Costante Girardengo e Fausto Coppi, entrambi fondamentali per la storia di Cavanna. Biagio Cavanna inizia proprio come ciclista dilettante. All'inizio fa anche bene, riesce addirittura a battere qualche volta Costante Girardengo, anche lui appunto originario di Novi. I due sono rivali dal punto di vista sportivo, e si dice che nel corso del campionato novese del 1909, dopo essere stato sconfitto da Cavanna, Girardengo scoppi in lacrime di rabbia, non solo per la sconfitta, perché in palio c'era, come dire, una supremazia in casa, si vinceva una corona simbolica, quella dell'idolo di Novi Ligure. Ma quella vittoria per Cavanna è un fuoco di paglia e per Girardengo il motore per la sua grande ascesa. Nel 12 Costante Girardengo diventa un grande ciclista professionista, comincia a vincere, vince tanto, e Marco Venturi nel suo libro Il campione e il bandito, la vera storia di Costante Girardengo e Sante Pollastri, ci propone di Girardengo una piccola descrizione. Il primo grande campione, il ciclista che aprì la strada a tutti gli altri nell'era moderna, fu Costante Girardengo. A scuola però non andava benissimo. Durante le lezioni gli piaceva leggere unicamente riviste sportive, nutrendosi di gare ciclistiche. Questa forte passione lo fece diventare una vera e propria forza nel ciclismo, quando quello sport decollò, e fu il primo a diventare veramente ricco montando su di una bicicletta. Biagio Cavanna invece non esplode. Nel 1915 scende definitivamente dalla sella e indossa i guantoni da pugile, perché lui è uno che non si arrende mai. È un colpo d'ala, si allena, disputa tanti incontri, partecipa al campionato di pugilato piemontese e lo vince. Però anche lì è un trionfo che non dura, non gli apre la strada per una carriera da pugile. Arrivano delle sconfitte, insomma lui capisce che neanche questa è la sua strada e appende i guantoni al chiodo. Però abbiamo capito che lui non è uno che si dà per vinto. Lui vuole una nuova carriera e siccome da solo in bicicletta non aveva trovato i risultati sperati, però lui il ciclismo lo ama, lui prova a aiutare gli altri, quelli che probabilmente hanno più talento di lui. Insomma, inizia a fare il preparatore atletico. Il Falco e il Gabbiano. Siamo negli anni 20, Biagio Cavanna ha appena lasciato la carriera da pugile, ha iniziato quella di preparatore atletico e probabilmente questo è il suo vero talento, perché diventa sempre più bravo come massaggiatore, perché lui il ciclismo lo conosce, sa quali sono gli sforzi, le difficoltà, i problemi, le attitudini degli atleti, sa dove mettere le mani, sa come trattare i muscoli di uno sport che è sempre e soprattutto sofferenza fisica, dedizione. Insomma, questa sua conoscenza gli fa scoprire un'altra capacità. Lui sa leggere i muscoli, riconosce rapidamente chi ha le doti giuste per correre sulle due ruote. Insieme al suo vecchio rivale Girardengo, lui diventa un talent scout e i due lanciano nell'ammaino l'Arco Guerra, quello che prenderà lo scettro di Girardengo, quello che verrà chiamato la locomotiva umana. E lui segue Guerra con una grande passione, si rivela un vero e proprio pioniere della preparazione atletica e già in quegli anni comincia a studiare intanto strategie biomeccaniche legate alla bici per cercare la miglior posizione in sella e poi inventa una scuola di ciclismo che ha sede nella sua casa a Novi Ligure. È una scuola che è destinata a sfornare tanti protagonisti del ciclismo italiano. E voi, peladroni, lavatevi, asciugatevi bene quel sudore! Attenti ai muscoli che si raffreddano, lavorare, sudare, traiesci, ne! Questo è uno spezzone tratto dal film per la TV Il Grande Fausto con il grandissimo Bruno Ganz nei panni di Cavanna. È uno spezzone che racconta molto del suo rapporto con i ragazzi che allenava, un rapporto all'apparenza duro e severo. Con Guerra Cavanna è protagonista peraltro di un episodio particolare. Nel 31, in un suo sprint durante la Milano-Sanremo, Guerra esagera, è in preda una vera e propria euforia agonistica, forse anche già stimolato, chi lo sa da che cosa. Comunque chiede troppo al suo fisico e a metà gara cade sull'asfalto sfinito, addirittura sviene. Cavanna lo soccorre, lo rimette in sella, Guerra riparte, finisce la gara sopportando grandi sofferenze, poi alla Spezia è costretto a ritirarsi. Lui ha un regime molto rigido, Cavanna, nella sua scuderia di Novi Ligure. Intanto ogni mattina gli uomini partono in gruppo e pedalano per circa 200 km, sole, pioggia, gelo, qualsiasi cosa lui li fa correre. Lo racconta anche lo scrittore britannico John Footen nel suo libro Pedalare, la grande avventura del ciclismo italiano. Da Cavanna il principio era pedalare, tutti i giorni in bici. Cavanna veniva a bussare alla loro porta anche alle 4, 4:30 della mattina. Dopo pane e caffè e un'altra razione di pane da tenere per dopo, i ciclisti vengono spediti in strada. Al ritorno, Cavanna ne controlla i muscoli per essere certo che abbiano davvero percorso tutto il tragitto. E qui emerge una delle incredibili caratteristiche di Cavanna, perché lui, manipolando i muscoli dei suoi atleti, riesce a capire il lavoro fatto. E non solo, si raccontava insomma che lui col tatto riuscisse a capire se erano pronti per una gara o addirittura se avevano la struttura giusta per diventare campioni. Il tatto per lui è fondamentale, anche perché nel frattempo Cavanna sta progressivamente perdendo la vista, e lo scrive ancora John Foote. Biagio Cavanna è in grado di dire semplicemente al tatto se sono pronti o no e di predire il loro futuro nello sport se sono agli esordi. Corrono in parte contro il tempo, e in parte in gruppo, su e giù per monti e colli della zona. Biagio Cavanna, nonostante non sia particolarmente generoso e spendaccione, è morbosamente attaccato all'alimentazione dei propri ragazzi, disposto a nutrirli e ad accudirli anche personalmente. Cavanna sostiene che per un corridore ciclista sufficientemente alimentato non esiste un super allenamento, e questa convinzione, che può sembrare estrema, lo porta a una, come dire, una linea precisa per preparare i suoi atleti. Stiamo parlando dei Novi Ligure degli anni 30 e 40, è un territorio depresso, ci sono la fame, le difficoltà della guerra e poi del primo dopoguerra. Parodi, corridore ai tempi di Coppi, ricorda così la generosità di Cavanna. Centesimi non ne ha mai dati, però mi ha tolto dalla fame. Già nel 1940 mangiavo a casa sua. All'inizio veniva sua figlia con una scodellina. Abitavo con mia madre, c'era un'inferiata. Lei mi passava il risotto col sugo di una volta, o la pasta asciutta. Era fame la mia, fame, perché non c'erano soldi e quindi non c'era cibo. Eh sì, l'Italia degli anni a cavallo tra il 30 e il 40 è una nazione contadina, povera, affamata. Però Cavanna ha delle altre priorità, perché lui, prima di saziare la sua fame, pensa a saziare quella dei suoi ragazzi. E sempre nello sceneggiato della Rai, il grande Fausto, quello interpretato oltre che da Bruno Ganza anche da Sergio Castellito nei panni di Coppi, vediamo proprio il carattere sanguigno, diretto, le raccomandazioni, i consigli che lui riserva ai suoi ciclisti, e i consigli che non riguardano solo la sfera sportiva atletica, ma anche quella personale, sociale. Non si accontenta di avere ottimi ciclisti, vuole che ci siano persone di integrità ferrea, che non cedano ai vizi. Divieto assoluto di alcol e fumo, anche le donne assolutamente proibite. Insomma, questo vi fa capire perché io ho fatto il cantante e non il ciclista, perché tutto stanca e tutto distrae dagli obiettivi. E poi le donne possono anche, nella visione catastrofica di Cavanna, essere causa di malattie venere. Mettiti la giacchetta, fai presto a far solo bravo. E voi, silenzio! Cos'è sto casino? Forza, peladroni, lavativi, ultimo allenamento e poi marciare a casa. Raus! E niente donne fino alla gara, che le donne stancano. Solo gambe in spalla, marciare e pedalare. Forse si dice che il rischio delle malattie venere, in realtà Cavanna lo conoscesse bene, che lo avesse sperimentato sulla sua pelle, perché tra le ipotesi della sua progressiva perdita della vista, che diventa evidente a Dortmund nel 37, la sei giorni di Dortmund, insomma, tra le origini potrebbe esserci proprio la sifilide. Non è una certezza storica, alcuni dicono che sia stata la colpa della polvere negli occhi, perché in quegli anni, insomma, di polvere ne arrivava dalla bicicletta. Però insomma, a prescindere dalla causa, il colpo di destino terribile che deve subire getta Cavanna in un periodo di depressione, di sconforto, perché dice, pensa come può andare avanti a allenare un uomo che non ci vede, e sarebbe difficile valutare la preparazione degli allievi senza poterli guardare in faccia, e basandosi solo su odori, sensazioni tattili, parole, rumori, sembrerebbe impossibile. E invece la vita riserva sempre un giro di boa, una speranza, quello che noi chiamiamo un colpo d'ala. A Cavanna succederà proprio questo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia leggendaria di Biagio Cavanna, allenatore, massaggiatore dei più grandi ciclisti italiani della storia. Girardengo, il primo campionissimo, la locomotiva umana, le Arco Guerra, ma soprattutto la sua scoperta, l'airone Fausto Coppi. Gli atleti di Cavanna ricordano che quando passava le mani sulle loro gambe era come se stesse impastando uova e farina. Era cieco dalla fine degli anni 30, e proprio da quel momento ha preso il volo la sua carriera di allenatore, proprio quando era tramontata la vista. Abbiamo già detto che alcuni hanno sostenuto che fosse diventato cieco per la polvere che aveva martoriato i suoi occhi durante la sei giorni di Dortmund, altri assicurano che la colpa sia stata di una malattia venerea, però insomma a un certo punto della sua vita su Cavanna cala il buio. Lui ha già superato molti ostacoli, però questa è una prova durissima. La cecità, come dire, annebbia anche la sua voglia di vivere, però lui è forte, reagisce, gira a suo favore una situazione che sembra drammatica, perché da massaggiatore diventa una specie di stregone, usa i sensi che gli sono rimasti e si concentra su quelli in maniera incredibile, comincia a sentire il ronzio dei muscoli, il movimento delle ruote della bicicletta, poi si dedica alla preparazione di sostanze con le quali aiutare la preparazione degli atleti, insomma la famosa bomba, non vogliamo addentrarci e, come dire, rovinare questa fiaba, però la bomba erano i primi esperimenti sul doping, e in quei casi era ancora, si parlava di stimolanti, di anfetamine. Tommy Simpson morirà sul Mont Ventoux di colpo in una ascesa agevolata dalle anfetamine, per esempio. Basta sapersi curare, saper trovare le dosi giuste, utilizzarle quando si è perfettamente allenati. Perché uno stimolante da solo non può certo trasformare un asino in un cavallo. Nessuno ha mai saputo cosa ci fosse nelle pozioni di Cavanna, ma come in tante altre pozioni che ci saranno nella storia del ciclismo, del calcio e dello sport. Bene, a un certo punto alla scuola per ciclisti di Cavanna bussa un ragazzo, si chiama Fausto Coppi, ha corso qualche gara da dilettante, ama il ciclismo, vuole fare il salto di qualità. Chi sei? Sono uno che vuole correre, signor Cavanna. Ah sì? E come ti chiami? Fausto, Coppi Fausto, vengo da Castellania. Vieni dentro, Coppi. Su, avanti, che non ho tempo da perdere. Spogliati e mettiti disteso su quel tavolo. Svetto, su. Cavanna, come al solito, vuole controllare le caratteristiche fisiche di Coppi, di questo aspirante ciclista, prima di accettare di allenarlo. Controlla i fianchi, il torace, i muscoli delle gambe, una specie di check-up completo. Allora, Coppi, vedoma. Vediamo la cassetta. Fermo. Allora, che mestiere fai? Io faccio... Insomma, i miei genitori hanno un po' di terra, sono in collina. Sono contadini. Reni sani e fai il contadino. Vediamo le caviglie. Se sono forte. Ah! Sei giovane per correre. Vediamo il cuore. Allora, Coppi, senti bene cosa ti dice Cavanna. Puoi farcela. Puoi farcela. Questo è il responso di Cavanna al giovane Coppi, capisce subito il potenziale, le doti di Fausto, naturalmente è ancora, anzi lui lo definisce un vitello da latte con un cuore forte di razza, insomma è ancora acerbo. Fausto comincia a credere in questa specie di guru dell'allenamento, accetta ogni richiesta, ogni diktat del suo maestro. La corsa è lontana, però è iniziata la leggenda del campionissimo. Le ossa di Coppi sono sottili, fragili, ma in compenso molto leggere. Il cuore batte molto lentamente e questa è, come dire, già una ottima cosa. Però Cavanna pretende serietà, fiducia nei suoi metodi, poi naturalmente allenamenti quotidiani e una vita regolare, direi monastica. Sono regole molto rigide e Coppi le segue per 3 anni per guadagnarsi il diritto di gareggiare. Coppi, cosa c'è? Niente, signor Cavanna. Cosa stai pensando? Pensavo che sono già passati 3 anni. Vuoi correre? Ho capito. Tutti vogliono correre. Non avere premura, Coppi, aspetta. Vedrai che quando è il momento buono ti metto in strada io a correre. Quando è il momento giusto. Pazienza, ci vuole pazienza. Cavanna predica la calma e il sacrificio, perché la bicicletta pretende fatica, pretende dedizione, pretende salite e discese, non solo di montagna, ma proprio nella fortuna, nel dispiacere. Insomma, la bicicletta insegna a vivere, lui vuole uomini che sappiano vivere, che conoscano la fatica, come ricorda Gianni Brera. I ciclisti dovevano essere poveri e avvezzi a soffrire, se no non li voleva. Quindi ha esitato molto a prendere anche Coppi, perché secondo lui era un corrotto, in quanto faceva il servitore da un salumaio di Novi, no? Ma non teneva conto che Coppi usciva da una famiglia di gente capace di soffrire all'infinito proprio. Se tu vai al paese di Coppi ti accorgi come lui abbia potuto sopportare certi dolori e certi sacrifici, no? Bene, questo era ormai cieco, il Cavanna, e ha palpato Coppi, ne ha dedotto la morfologia. Coppi era splendido ragazzino, però aveva il torace da uccello, sai, proprio perché era figlio di un alcolizzato, tanto per parlare di cose esaltanti, no? Però aveva delle gambe straordinarie. E poi devi tener conto sempre di un fatto, che non valgono considerazioni morfologiche sul ciclista, perché la simbiosi bicicletta, questo misterioso traliccio e uomo, è tuttora un mistero. E Cavanna lavora sui muscoli, sul carattere di Coppi, che comincia a infilare le prime vittorie: il Giro del Penice, la Coppa Canepa a Genova, il circuito di Susa, il Giro del Casentino, il premio di Varese, il circuito di Varzi, tutto in pochi mesi. Insomma, il metodo Cavanna funziona. Al Giro di Toscana Coppi esordisce tra i professionisti come indipendente, deve confrontarsi con i grandi ciclisti italiani, primo tra tutti il campione di quegli anni, che è Gino Bartali. Coppi rimane attaccato alla ruota di Bartali per tutta la gara, vicino al traguardo cade, rompe una ruota, Bartali vince, ma Coppi ha capito che può competere, e lo capiscono anche le squadre che contano. Lui rifiuta un'offerta della Maino per rimanere fedele a Cavanna, però del talento di Fausto si è accorto anche il vecchio rivale dell'allenatore, cioè Girardengo, che decide di rubargli il suo gioiello sportivo. Girardengo va a casa di Coppi, gli presenta un'offerta di quelle che un contadino come lui non può rifiutare. Cavanna è deluso, arrabbiato, si racconta che inizia a gridare: dov'è quello lì, riferito a Girardengo, se lo prendo lo ammazzo. Ma ormai è tardi, Girardengo è andato via con in mano un contratto con la firma Fausto Coppi. È la fine del rapporto sportivo tra Cavanna e Coppi, ma non di quello umano, perché Cavanna rimarrà sempre vicino a Coppi con i suoi consigli. Siamo nel 1940. Bartali, dopo aver visto gareggiare Coppi, lo vuole come gregario e se lo porta al Giro d'Italia. Però alla seconda tappa del Giro qualcosa cambia, tutto si capovolge, perché Bartali è in testa alla maglia rosa, cade per colpa di un cane che gli attraversa la strada, risale in bici, arriva al traguardo con un ritardo abissale, e così Coppi si trova promosso capitano sul campo grazie al fatto che è il secondo in classifica generale in quel momento della Legnano. Insomma, Coppi quel giro lo va a vincere ed è l'inizio di una rivalità epica. Fausto Coppi sale così alla ribalta della grande avventura. Il gregario di Bartali, l'uomo che non è nato per fare il portaacqua, tallona il suo capitano, ne scopre i momenti di crisi ed esplode nella vittoria del suo primo Giro d'Italia. È la pagina d'apertura di un mito. Coppi è giovanissimo, mai nessuno ha vinto il Giro d'Italia così giovane fino al 1940. Il legame tra lui e Cavanna, anche se il rapporto professionale si è interrotto, rimane strettissimo. Intanto però in Italia e i momenti sono durissimi, niente può sfuggire all'inferno della guerra. E nel 42 Cavanna convince Fausto Coppi a dare l'assalto al record dell'ora al Vigorelli, anche perché vuole fargli allontanare il pericolo di dover andare militare in prima linea. Però c'è un problema: in quel momento Milano è sotto bombardamento, gli organizzatori dell'evento chiedono a Cavanna di evitare un assembramento diurno di persone, visto il pericolo che Milano corre. Cavanna insiste, vuol far correre Coppi, allora si comunica al pubblico un orario falso e quindi Coppi scende al Vigorelli in un'atmosfera surreale, con gli spalti vuoti, in un silenzio spettrale, si concentra, stabilisce il record dell'ora e insieme a Cavanna ha bruciato un'altra tappa del suo fantastico percorso. Ma alla fine Coppi in guerra ci deve andare lo stesso, va in Africa e dopo l'8 settembre finisce in un campo di prigionia dove rimane per quasi 2 anni. Il suo ritorno è molto provato, non è lo stesso del Giro d'Italia del 40, però trova Cavanna ad allenarlo e a spronarlo. Insomma, dopo questo stop forzato, Cavanna rimette in sesto i muscoli e soprattutto il cervello, la mente di Coppi, gli fa tornare la voglia di vincere, e alla Milano saremo del 46, Coppi taglierà il traguardo per primo con 14 minuti di vantaggio. Cavanna gli ha insegnato a pedalare, a vivere, a vincere, a reagire, andando sempre avanti a testa alta, e Coppi ha sempre vinto tutto. Nella sua carriera Cavana ha costruito altri corridori importanti: Ettore Milano, Sandrino Carrea, Michele Gismondi, Riccardo Filippi. Però per tutta la sua vita il filo conduttore della sua strana e magica professione è stato il legame con Fausto Coppi, fino alla fine, fino alla morte di Fausto Coppi nel 60 di malaria. Cavana rimarrà sconvolto da una morte peraltro assurda e abbandonerà la sua attività di allenatore, di scopritore di talenti, e se ne andrà meno di 2 anni dopo, nella sua Novi Ligure, il 21 dicembre del 61. Ha lasciato in eredità pagine indimenticabili di ciclismo e il suo soprannome, che racchiude la sua storia umana: l'Orbo Veggente. Ci sono persone che hanno saputo reagire più volte alle difficoltà della vita, anche alle più terribili, persone che hanno votato la loro esistenza a rendersi utili, hanno vissuto una vita anche attraverso qualcun altro che loro hanno contribuito a far diventare grande. È la storia di Biagio Cavanna, e ognuno della sua vita può cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala. Se volete mandare dei commenti, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi nei miei Facebook, Twitter, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese, con la collaborazione degli studenti del Master in Radiofonia della 24 ore Business School, Massimiliano Carrà, Davide Motta, Grazia Piccininno, Edoardo Prallini, Stefano Sfondrini.